18. Lady Songclean nella prigione sotterranea. Un pomeriggio di alcune settimane più tardi, quando Anna andò a casa di Lady Songclean per una lezione privata d'inglese, trovò il principe Krita, suo figlio, seduto accanto alla finestra con un'espressione insolitamente triste. «Dov'è la mamma, caro?» si informò Anna. «Penso di sopra con sua maestà?» rispose incerto senza guardarla. «Ma tornerà presto?» insistette lei. «Non lo so», fu la risposta. «Se n'è andata da molto tempo». Anna rimase incerta e vagamente stupita. Era una circostanza veramente strana. Non sembrava in carattere con Lady Songclean, che era molto pignola in ogni suo impegno. La sola spiegazione possibile era che fosse stata convocata dal re in modo così inaspettato da non aver avuto neppure un momento per far pervenire ad Anna un messaggio da uno schiavo. E l'odio del re per lei era troppo radicato perché si potesse pensare a un atteggiamento diverso. Mentre Anna tornava a casa, analizzava le diverse possibilità e più ci pensava e più si sentiva perplessa e piena di sinistri presentimenti. La mattina successiva, per recarsi a scuola, prese la strada in cui abitava Songclean. Vide di nuovo Krita seduto alla finestra nello stesso atteggiamento, con gli occhi che scrutavano ansiosamente nella stessa direzione. «Non è ancora tornata tua madre, caro?» chiese Anna. Il bambino rispose, senza spostare lo sguardo. «No, signora, non è ancora tornata». Oh, questo era davvero allarmante. Mentre Anna entrava nel portico del tempio, vide la favorita, Lady Talap, che la stava aspettando. Afferrò la mano di Anna e la tirò da parte, dicendole: «Mem Cha, Songclean è nei guai». «Cos'è successo?» volle sapere Anna. «Lo sa?» Lady Talap si avvicinò di più ad Anna e le sussurrò all'orecchio: «È in prigione!» «Cosa ha fatto?» «Sh, non lo chieda, non oso dirlo!» «Posso vederla?» «Sì, se corrompe i carcerieri, un tical per uno. Ne chiederanno due, faccia presto, vada!» Mancò poco che spingesse Anna oltre la porta. Nel padiglione, che era la cappella privata delle signore dell'harem, oltre che la scuola, i preti avevano già iniziato a leggere le preghiere e a recitare le omelie dal libro sacro di Buddha, Sasana Tai, la religione dei liberi. Anna si affrettò in punta di piedi fuori dal tempio. Alla porta c'erano le amazzoni e i due eunuchi con spade e mazze che scortavano i preti dentro e fuori del palazzo e li sorvegliavano durante i servizi. Una giovane madre con un bambino addormentato era seduta nelle vicinanze. Alcune schiave erano assorte nel gioco della saba, una specie di biglie che manovravano con le ginocchia e con le dita. Anna incontrò due principesse, non più bambine, in braccio alle loro schiave. Affrettò il passo. Sulla porta della prigione c'era un gruppo di schiave in ozio. Erano di guarda due amazzoni che sembravano assorti in conversazione con loro. Quando Anna si avvicinò, si zittirono. Entrare fu più difficile di quanto avesse detto Lady Talap. Non venne ammessa finché non ebbe pagato due tikala a ognuna delle due guardie. Dietro la porta c'era una terza amazzone a cui dovette dare dell'altro denaro e che l'accompagnò per un lungo corridoio. Anna respirava profondamente. La prigione era un vasto edificio irregolare con due recinzioni, una dietro l'altra, che si aprivano sul corridoio, dove in orari stabiliti ai prigionieri era permesso camminare. La stanza, che veniva usata come cortile, occupava un intero lato delle recinzioni, mentre tre file di celle occupavano gli altri lati. Una donna rinchiusa in una di queste fissò Anna da dietro una grata, ma non era Lady Songclean. In queste celle erano imprigionate le donne che avevano commesso piccoli reati, ma Lady Songclean non c'era. L'amazzone si fermò e sollevò una botola che portava alle segrete. Anna ne fu inorridita. Ma di che crimine era stata accusata la sua amica per venire rinchiusa là? Scese una rampa di scale rotte, erano così scivolose che a fatica stava in piedi e così buie che brancolava. Allungò la mano per aggrapparsi al muro, ma era scivoloso e quando arrivò in fondo sentì sotto i piedi alcune assi non fissate, molli come il fango che avrebbero dovuto coprire. L'acqua che filtrava dal fiume le aveva fatte marcire. La cella prendeva luce da una finestrella con grate così pesanti che l'aria non entrava. Il soffitto era nero di sporco e di muffa. I muri di pietra dura erano ricoperti di muschio, funghi e rettili. Quando gli occhi di Anna si abituarono all'oscurità, si accorse dei disegni osceni sulle pareti. Un paio di trespoli, nell'estremità più lontana della cella, reggevano delle dure assi che formavano una specie di letto su cui era steso un materasso. Lady Songclean vi giaceva immobile. Aveva i piedi coperti con un mantello di seta e appoggiava la testa sopra un guanciale di pelle lucida. Il viso era girato verso il muro viscido e non cercò di vedere chi aveva sceso le scale incespicando. Sopra il cuscino c'era un vaso di fiori per metà sbiadito, un paio di candele che bruciavano in candelabri d'oro e una piccola immagine di Buddha. Anna si mosse con cautela sul fango del pavimento e sulle assi marce e si fermò accanto alla figura immobile. Sotto shock cercò di parlare, ma la sua voce si sentiva appena. «Son clean!» La donna si girò a fatica. Un debole rumore di catene chiarì perché aveva i piedi coperti. Era incatenata alla sbarra del letto. Si mise seduta facendo posto ad Anna accanto a sé. Nessuna lacrima negli occhi. Soltanto la malinconia sul suo viso sembrava più profonda. Anna pensò selvaggiamente che davanti a lei c'era il perfetto frutto della vittoria, della crudeltà e dell'ingiustizia sulla dolcezza e sulla pazienza. Son Clean era evidentemente sorpresa di vedere Anna. Allungò la mano per toccare l'amica, non credendo ai propri occhi. Quando si rese conto che era davvero Anna in carne e ossa, raccolse le mani in un gesto di supplica e vi nascose la testa. «Mem, mem!» si lamentò. «Mi aiuti, mem! Aiuti la sua povera allieva!» Anna prese le mani della donna nelle sue. «Cercherò Son Clean, farò il possibile, ma mi deve dire perché si trova qua. Cos'è successo?» Son Clean parlò con voce piatta, come se l'angoscia l'avesse privata di ogni sentimento. «Lei sa, mem, che noi possiamo avanzare petizioni a Sua Maestà per il tramite dei nostri figli. La mia famiglia desiderava che facessi una richiesta al re per mio fratello maggiore. Speravano che Sua Maestà gli avrebbe garantito l'incarico che era stato del mio prozio, senza sapere che Sua Maestà aveva già scelto un altro nobile per quella posizione. Nemmeno io lo sapevo, mem». Si passò una mano sugli occhi come se avesse voluto scacciare qualcosa che lei solo vedeva e continuò senza vigore. «Ieri mattina ho vestito Krita con gli abiti migliori e a colazione l'ho mandato dal re con la richiesta. Il bambino aveva paura perché, come lei sa, non siamo graditi. Ma quando gli ho spiegato la ragione ha acconsentito. L'ho aspettato a casa ma è tornato in lacrime. Dopo aver letto la richiesta, il re si è infuriato e l'ha gettata sulla faccia del mio povero ragazzo che tremava in ginocchio davanti a lui. Mi ha accusato di complottare per minare il suo potere, dichiarando che in fondo al cuore era una ribelle mon. E più parlava, più si infuriava. Quindi mi ha fatto convocare da un giudice per sottopormi a un processo per ribellione. Ho lasciato Krita a casa, ma prima che raggiungessi il palazzo sono stata fermata da un altro giudice con l'ordine di incarcerarmi senza processo. Dopo che mi hanno incatenata qua e se ne sono andati, è arrivato un altro giudice con l'ordine di percuotermi finché non avessi confessato il tradimento e fatto il nome dei miei complici. E cosa ha confessato? Ma di essere la schiava più umile di Sua Maestà e pronta a dare la vita per suo piacere. E allora? Allora Sua Maestà ha ruggito che per la menzogna dovevo essere colpita con una ciabatta sulla bocca. No, inorridì Anna. Per un siamese questo era il massimo insulto, dal momento che la testa era considerata troppo sacra, persino da toccare, mentre i piedi e quello che li ricopriva tanto degradanti che non se ne poteva neppure parlare in società. Son Clean sedeva a testa bassa, priva di qualsiasi vitalità. «Sono disonorata per sempre», disse. Anna la consolò come meglio poté, le disse di aver visto il principe Krita che era a casa con gli schiavi che si occupavano di lui e promise che quella sera stessa avrebbe sottoposto la faccenda al Kralahom. Il Kralahom la ricevette in privato, ma quando lei gli ebbe spiegato lo scopo della visita la rimproverò aspramente. «Non è affar suo, mem, interferire tra Sua Maestà e le sue mogli». «È una mia allieva», rispose Anna cocciuta, «e inoltre non ho interferito, sono solo venuta da lei in privato a cercare giustizia. Nessuno ne sa niente al di fuori di questo palazzo e se lei non l'aiuterà porterò immediatamente la notizia alla sua famiglia». Il ministro la guardò con durezza perché la famiglia di Son Clean, anche se in disgrazia, era un clan grande e potente, avrebbe trovato il modo di vendicarsi dell'insulto e non era un segreto per nessuno il fatto che i francesi stavano cercando ufficiali scontenti che potessero servire ai loro piani imperialistici. Il primo ministro si agitò a disagio e chiese di che cosa è accusata esattamente. di avere richiesto per il fratello un incarico che era già stato assegnato a qualcun altro. Sua maestà l'accusa di complotto assieme alla sua famiglia. Questo ovviamente è ridicolo, dal momento che loro non sapevano che l'incarico era stato assegnato. E la cosa non può di certo migliorare la reputazione del sovrano con i suoi amici stranieri. Il Kralahom l'ascoltò gravemente, accigliandosi alla minaccia implicita dell'ultima frase. Poi mandò a chiamare il segretario. E dopo essersi accertato che non era stata pubblicata l'assegnazione dell'incarico, promise che nell'udienza serale avrebbe spiegato a Sua Maestà la faccenda. «Informerò Sua Maestà che c'è stato un ritardo nel rendere noto a corte le sue decisioni sulla faccenda», disse. Ma parlò con tono indifferente, come se il trattamento di Song Clean non avesse, dopo tutto, importanza. Anna rabbrividì, vedendo che non reagiva con indignazione come lei si sarebbe aspettata. Era più in ansia che mai quando ricordò gli occhi tristi del ragazzo che aspettavano il ritorno della madre. Nessuno degli schiavi aveva osato dirgli la verità. Che cosa doveva aspettarsi dalla promessa apatica del primo ministro, seppur l'avesse mantenuta? Non c'era altro che potesse fare. Andò a casa, sentendosi sola e triste. Aveva contato su di lui più di quanto non si fosse resa conto, perché era giunta alla convinzione che in lui albergasse una buona fibra morale. Era freddo, astuto, senza scrupoli, ma aveva creduto che fosse giusto, mai imprevedibile o accecato dai pregiudizi come il re. La brutalità del re e la durezza del premier pesavano su di lei come un macigno. Mentre ancora in preda all'agitazione sbocconcellava la cena, le sembrava che con simili capi per i siamesi non ci sarebbe mai stata una società in cui pace e giustizia diventassero realtà. Si chiese ancora come faceva, ogni volta che si sentiva scoraggiata, perché era venuta in un posto in cui la sensibilità era continuamente calpestata dal disinteresse per i valori umani. Per il re le sue donne non erano che animali in gabbia, che potevano essere distrutti a ogni suo capriccio. L'idea la riempì di ribrezzo e di disprezzo e di una sensazione di impotenza per il compito che si era prefissata. Ma non avrebbe rinunciato ad aiutare Song Clean. Se non fosse stata libera, la prossima volta che Anna fosse entrata a palazzo, almeno avrebbe potuto informare la sua famiglia. Il lunedì mattina Anna si avvicinò alla scuola, nel tempio, col fiato sospeso, non volendo sperare, ma incapace di calmare il battito rapido del suo cuore. Numerose donne, che evidentemente la stavano aspettando, le si affollarono intorno con la buona notizia. Song Clean era a casa con suo figlio. Anna decise che quella mattina avrebbe saltato il servizio religioso, qualunque cosa avesse significato per le presenze in classe, e si affrettò ad andare dalla sua amica. Era ancora per strada che Song Clean le corse incontro e l'abbracciò con affetto. «Mem, mem, sono libera, tutto grazie alla sua intercessione». Sembra che la stessa sera in cui Anna si era recata dal Kralahom, lui fosse andato al grande palazzo per spiegare al re, fingendo di non essere al corrente della punizione della concubina, che c'era stato un ritardo nella pubblicazione dell'ultimo elenco di incarichi e che si sarebbe provveduto immediatamente. Anna provò un moto di gratitudine per il premier. Per il torto che era stato fatto a Song Clean si era dato più pena di quanto non le avesse lasciato credere. «E allora?» «Allora, la domenica mattina, le amazzoni sono arrivate con la notizia che il re aveva ordinato il mio rilascio, ed eccomi qua». Con solennità si tolse dal dito un anello con uno smeraldo, prese la mano di Anna nelle sue e le fece scivolare l'anello sul dito, dicendo «per ricordarle l'amica grata che ha liberato». Il giorno seguente le mandò una borsetta intessuta d'oro con alcune monete siamesi, dono che i reali erano usi elargire, e nella borsetta, con le monete, c'era un foglio con dei segni cabalistici, un incantesimo infallibile contro i dispiaceri e la povertà. 19. La colazione del re. Verso la fine del suo primo anno di permanenza in Siam, Anna iniziava a capire come funzionava la vita a palazzo. All'interno delle sue mura esisteva un universo con un unico sole e molte lune. Il re era il disco di luce intorno a cui tutto ruotava. Quello che lui faceva ogni giorno determinava quello che facevano le donne dell'harem. Persino la scuola inglese doveva adattarsi all'orbita della vita del re. Si alzava alle 5 e con lui la maggior parte dei membri della casa. Dopo un magro pasto preparato dalle donne che erano state in servizio durante la notte, scendeva in cortile e prendeva il suo posto su una stuoia che univa i due cancelli dell'interno e attraversava tutte le vie. Alla sua destra, in ordine di rango, sedevano i suoi figli, poi le principesse, le concubine, le damigelle d'onore per ultime e gli schiavi. Un po' dopo le cinque, il cancello, che si chiamava Cancello del Merito, veniva aperto ed entravano 199 monaci in mezzo a una scorta di eunuchi armati con spade e mazze. Mentre i preti si avvicinavano alla famiglia reale, intonavano: «Prendi il tuo cibo, ma pensa alla polvere, mangia solo per vivere, per sapere quello che sei e cosa c'è sotto. E ripeti, dentro il tuo cuore, è la terra che mangio, che alla terra possa dare nuova vita». Guidava la processione il monaco più importante, avanzava a occhi bassi e presentava la sua ciotola appesa al collo con una cordicella che fino a quel momento era rimasta nascosta tra le pieghe gialle della tunica. Se qualcuno di quelli a cui veniva offerta la ciotola non era pronto, i sacerdoti non si fermavano, tutti continuavano ad avanzare lentamente prendendo quello che veniva offerto, senza ringraziare e senza nemmeno un'occhiata, finché raggiungevano la fine della lunga fila. Poi, sempre cantando, la processione si ritirava verso il cancello chiamato Cancello della Terra. A questo punto il re si ritirava nel suo tempio privato dedicato alla memoria della madre. Da solo saliva gli scalini verso l'altare e suonava la campana che annunciava l'ora delle preghiere. Accendeva le candele consacrate e offriva le rose bianche e i fiori di loto che aveva portato. Poi passava un'ora in preghiera e in meditazione. Alla fine della funzione tirava per un sonnellino accudito da un nuovo gruppo di ancelle. Al risveglio, con un complicato cerimoniale, gli veniva servita la colazione. Dopo che aveva controllato i doni per terra davanti al palazzo, entrava nell'anticamera della sala delle udienze delle donne, dove stavano in attesa molte donne dell'harem. Si sedeva a un lungo tavolo, spesso con la piccola principessa Chantaram Monton in grembo. 12 donne stavano in ginocchio nelle vicinanze davanti a grandi vassoi d'argento, riempiti con 12 varietà di cibo: zuppe, carne, selvaggina, pollame, pesce, verdure, dolci, gelatine, conserve, salse, frutta e tè. Ogni vassoio, nell'ordine, veniva passato a 3 donne che lo porgevano alla prima moglie, Lady Tiang, che toglieva il coperchio d'argento e sembrava assaggiare i contenuti del piatto. Poi, procedendo sulle ginocchia, appoggiava i piatti uno alla volta sul tavolo davanti al re. In realtà il re piluccava solamente le ricche vivande, nonostante ne facesse in continuazione richiesta alla principessa. Era notoriamente moderato nella dieta. Durante la lunga reclusione nel monastero buddista aveva acquisito abitudini frugali che non abbandonò mai. Era buffo vederlo mangiare solennemente con bastoncini d'oro una modesta ciotola di riso bollito che avrebbe potuto essere il pasto di un facchino. Durante queste tranquille colazioni chiacchierava con Anna. A volte commentavano le notizie del giorno, in altre occasioni discutevano di argomenti interessanti che riguardavano gli studi o le letture del re o gli studi di sanscrito di Anna. Fu in quei momenti che Anna arrivò a conoscere bene il re, ad ammirarlo e a rispettare i suoi successi intellettuali. Credeva che tra le teste regnanti del momento, sia orientali sia occidentali, fosse la persona con il maggior livello di istruzione, il più insaziabile divoratore di libri. Spesso però provava repulsione per il suo scetticismo per quanto riguardava le persone, non aveva nessuna fiducia nell'onestà dell'individuo, era convinto che ogni uomo si sforzasse di raggiungere i propri obiettivi con mezzi leciti e non poteva credere che qualcuno agisse per principio. A volte Anna cercava di confutare la sua analisi sprezzante delle azioni di un amico solo per scoprire con mortificazione che lui vedeva in quella generosità un modo per ottenere dei vantaggi personali. Era semplicemente suo interesse particolare affermare ciò, diceva, aggiungendo con acidità: denaro, denaro, denaro, compra qualsiasi cosa, come se i suoi amici avessero corrotto Anna perché sostenesse la loro causa con il re. Nella mattinata studiava o sbrigava la corrispondenza. Durante questi periodi di solito Anna era libera di occuparsi della scuola, ad eccezione dei giorni dedicati alla corrispondenza, che capitavano un paio di volte al mese. Se il re era stanco, a mezzogiorno faceva un altro sonnellino, altrimenti continuava a studiare fino alle 2, quando riponeva i libri e le lettere e mandava una candela d'oro al tempio del Buddha di Smeraldo. Come Anna aveva avuto modo di vedere durante la sua prima visita a palazzo, Era il segnale che il re si preparava per la sua comparsa in pubblico. Immediatamente tutte le strade e i vicoli stretti e tortuosi che si intrecciavano con sorprendente irregolarità si riempivano di donne e bambini di ogni età. Rapidamente, senza parlare, questa corrente di eterogenea umanità vestita di seta o stracci, pallida e abbattuta o ridente, fluiva verso la sala delle udienze delle donne. I ranghi più bassi si inginocchiavano sul pavimento esterno, mentre tutti intorno alla sala, nelle alcove e nei recessi ombreggiati protetti dalle tende, si prostravano centinaia di principesse, concubine e ancelle in attesa che comparisse Sua Maestà. Nel frattempo il re aveva fatto il bagno e aveva unto il corpo con l'aiuto delle sue donne. Poi scendeva nel salone da pranzo dove gli veniva servito il pasto più sostanzioso della giornata. Dopo aver finito, entrava nella sala delle udienze e chiacchierava con le mogli e i figli favoriti. L'amore per i bambini era una qualità che non gli era mai venuta meno. Lo affascinavano la loro bellezza e la loro sincerità. Lo divertivano con l'audacia innocente delle loro maniere. Li prendeva tra le braccia, li abbracciava e faceva delle smorfie buffe ai neonati. Ai bambini più grandi poneva domande difficili e lo divertiva vedere la serietà con cui cercavano di rispondere. L'andamento normale della piccola scuola inglese era complicato anche da una curiosa mescolanza di servilismo e assoluta mancanza di disciplina che faceva parte del carattere siamese. Il più delle volte i modi dei bambini erano perfetti, la loro attenzione agli ordini di Anna ammirevole. D'altro lato, non era mai sicura di quando, senza nessuna ragione apparente, avrebbe perso il controllo e i figli del re avrebbero gettato al vento tutte le regole e sarebbero diventati ingovernabili. Una mattina entrò nel tempio e trovò i bambini tutti al loro posto. Qualcosa l'allontanò per 2 o 3 minuti e quando ritornò per iniziare la lezione della giornata i bambini erano scomparsi, senza che lei riuscisse a capirne la ragione e non riuscì a rimetterli insieme fino alla mattina seguente. Era sorprendente. Quasi ogni pomeriggio la lezione veniva interrotta quando un gruppo di monaci attentamente sorvegliati entrava nella città dell'Harem per purificarla con l'acqua consacrata. Mentre passavano da un cancello all'altro lungo le strade, spruzzando acqua a destra e a sinistra, i bambini correvano affannosamente a prostrarsi sul marciapiede a portata della doccia purificante. Libri, matite e lavagne volavano in ogni direzione. Era inutile cercare di riprendere la lezione dopo il passaggio dei preti perché i bambini erano riluttanti e disattenti. Anna, con un sospiro, li rimandava a casa e loro scomparivano sulle spalle dei loro schiavi per prepararsi all'udienza pomeridiana con il padre. Il re, dopo aver congedato le donne e i bambini, si trasferiva nella sala esterna delle udienze per discutere questioni ufficiali con i membri del governo. 2 volte alla settimana, al tramonto, compariva a uno dei cancelli del palazzo per ascoltare le petizioni della gente che non aveva altre occasioni. Era una pena vedere i sudditi atterriti del Signore della Vita, prostrati e abietti, spesso troppo sopraffatti per sottoporgli le preziose petizioni che avevano portato con sé. Alle 9 si ritirava nelle sue stanze private e immediatamente emanava una serie di bollettini domestici, ordini che regolavano la vita dell'interno. Compiti speciali per alcuni ufficiali, i nomi delle donne che desiderava vedere e la lista delle cose che si aspettava fossero compiute durante la notte. Circa a mezzanotte si svegliava e dedicava parecchie ore allo studio o alla corrispondenza. Se gli sfuggiva il significato di una parola, chiamava Anna. Di solito si trattava di espressioni tecniche o scientifiche che nemmeno Anna conosceva, al che il re si infuriava e si sfogava urlandole: «Lei è solo una donna, dopo tutto». 2 volte alla settimana, a mezzanotte, si teneva una riunione segreta del San Luang, la Reale Inquisizione. Anna non scoprì mai esattamente di cosa si trattasse, perché non partecipò mai e nessuno ne parlò mai in sua presenza. Il San Luang era silenzioso, insidioso, segreto. Non era un'inquisizione aperta e audace come quella di Roma, ma notturna, non vista e onnipresente come quella spagnola. Avveniva senza testimoni o senza avvertimento, rapiva un suddito e lo imprigionava in catene, poi lo torturava per estorcergli una confessione o una denuncia. Le leggi del paese non erano insopportabili, ma chi non era nelle grazie del San Luang non poteva aspettarsi regolari processi. I cittadini più saggi cercavano con cura tra amici e parenti un protettore che vi appartenesse. Spie che appartenevano al San Luang penetravano ogni famiglia benestante e influente. In diverse occasioni Anna si accorse che se esprimeva commenti particolari davanti a certe persone, queste picchiettavano in modo furtivo. Scoprì che si trattava di un segnale della setta. Dal momento che Anna aveva un'influenza così grande sul re, pensavano che lei ne fosse un membro. Il lavoro della scuola procedeva con rapidità e ciò deliziava il re. Nell'autunno del 1862, dopo pochi mesi di scuola, i figli del re scrivevano piccoli messaggi in inglese ad Avis, la figlia della loro insegnante. Alcuni erano scritti su carta goffrata col sigillo reale, altri su fogli bordati di pizzo come antiquati biglietti di San Valentino, altri su semplici fogli per appunti. Erano pieni di affetto e quando l'inglese faceva difetto si inseriva una parola in siamese. I bambini regali trovavano estremamente triste che Avis fosse stata allontanata da sua madre. Alcuni portarono dei piccoli doni da mandare a Avis, pensando così di consolarla della sua solitudine. Mentre l'anno volgeva alla fine, il principe Chulalongkorn Longhorn primeggiava tra i bambini. Lavorava con metodo e molta serietà e il costante progresso gratificava l'insegnante e ancora di più il padre. Mostrava più autodisciplina degli altri bambini e spesso, con l'esempio o con le parole, aiutava a tenere sotto controllo i suoi fratelli più piccoli. Anna provava un'attrazione particolare anche per i due figli di Lady Talap, la moglie con la squisita faccia di bambola a cui era stata presentata dal re durante la prima udienza. Il figlio di Song Clean, il principe Krita, la figlia maggiore di Lady Ting, la principessa Somawadi e la principessa Chantaramonton, o Fai Ying, come veniva chiamata, la sorella del principe Chulalongkorn. Era una bambina eccezionalmente dolce ed era la preferita tra gli oltre 60 figli del re. Aveva occhi scuri, così pieni di fiducia da accattivarsi la simpatia di tutti. Il delicato colorito di un morbido oliva chiaro metteva in risalto la trasparenza della pelle. Poco prima di morire, la regina consorte aveva affidato i suoi 4 figli al padre con tenerezza e ansia. Lui era stato molto colpito dalla sua supplica. Come aveva amato la madre, così ora amava i figli e tra tutti e 4 Fai Ying era quella che gli era più vicina. Durante i pasti stava quasi sempre con lui. Durante le processioni ufficiali in giro per la città, o sulla barca reale o in palanchino, sedeva vicino a lui. Quando era poco più che una bambina, le aveva assegnato la migliore tutrice tra le donne dell'harem. A 3 anni aveva iniziato a studiare il siamese e il sanscrito. Quando a 7 anni cominciò le lezioni con Anna, era già sorprendentemente brava in entrambe. Era deliziata dai disegni dei libri inglesi. Ogni volta che era stanca di studiare, saltava in braccio ad Anna e, sistemandosi comodamente, le chiedeva: «Dimmi una storia, parlami del tuo bel Gesù!» E dopo che Anna aveva raccontato la storia, Fai Ying sorrideva, dava un buffetto sulle guance di Anna e diceva: «Anch'io, piccola Fai Ying, amo molto il tuo sacro Gesù. Lui mi ama un po'? Io non ho mamma, povera piccola Fai Ying. Può amare anche lei?» Coscientemente Anna cercò di modellare la piccola Fai Ying alla dolcezza. Sapeva che in questo aveva l'appoggio e l'incoraggiamento della prozia, la principessa Lamom. Se negli anni a venire Fai Ying avesse scelto di usare l'enorme potere che aveva sul padre senza egoismo, molto avrebbe potuto fare per alleviare la crudeltà della vita intorno a lei. E come suo fratello, il principe Chulalongkorn, provava un'innata simpatia per coloro che soffrivano. Ad Anna sembrava che entrambi i bambini assomigliassero meno al padre che allo zio, il secondo re, il quale anche da bambino era conosciuto per la generosità dell'animo. Un anziano sacerdote aveva raccontato ad Anna che a 12 anni il giovane principe, mentre si recava nel giardino di loto della madre, scorse sul ciglio della strada un vecchio mezzo cieco. Lo fece lavare e rivestire con abiti puliti e gli offrì un pasto sostanzioso. Dopodiché prese lo strabiliato individuo a servizio come mandriano. Anche più avanti con gli anni, il principe aveva continuato a essere generoso e romantico, una specie di Harun al-Rashid che andava a visitare i poveri in incognito. Ascoltava l'elenco delle loro sofferenze e dei torti subiti e li aiutava quando poteva. Il popolo lo idolatrava e lo avrebbe voluto come re. Il re Monkut, che aveva un temperamento freddo quando non era riscaldato dall'ira, vedeva con sospetto questo fratello dal cuore buono e trovò il modo di limitarne le attività fino a renderlo di fatto un prigioniero di Stato. Sembrava comunque improbabile che il re potesse nutrire lo stesso sospetto verso gli appassionati impulsi dei suoi figli preferiti. Non si rendevano nemmeno conto che il padre portava un'armatura contro il mondo. Nelle loro mani lui era completamente malleabile. Ricevevano tutto quello che chiedevano. Anna ripensò all'anno trascorso e sentì che non sarebbe stato sprecato, anche se fosse servito soltanto a rinforzare il naturale idealismo del principe Chulalongkorn e di Fei Ying. «Mi insegnerai a dipingere, Mem Cha? Voglio fare dei bei quadri!» Un pomeriggio che Anna stava lavorando da sola, mentre i suoi allievi seguivano la lezione di sanscrito, una vocina trillante la interruppe. Era Fei Ying che si sporgeva fiduciosa verso di lei e le sorrideva. «È più divertente stare qui con te che seguire la lezione di sanscrito. Non mi piace l'insegnante, ma mi piace l'insegnante di inglese e mi piace l'inglese. E nei tuoi libri ci sono tante belle figure e voglio disegnarne anch'io. Mi insegnerai a dipingere, Mem Cha?» Fei Ying si arrampicò in grembo ad Anna e vi si accoccolò come un gattino. Anna appoggiò la penna per farle spazio. Anche se la principessa aveva quasi 8 anni, non era più grande di un bambino inglese di 4. Il suo fascino non era il risultato della perfezione fisica, ma veniva dallo spirito così solare, senza vizi, nonostante tutte le attenzioni che le erano rivolte. «Sarò lieta di insegnarti a disegnare e a dipingere, se Sua Maestà non ha niente in contrario», promise Anna. Fei Ying le gettò le braccia al collo e le diede un abbraccio deliziato che provocò in Anna una fitta di nostalgia per sua figlia Avis. «E quando andrai in Inghilterra, Mem Cha, mi prenderai con te e Louis nella barca grande grande?» «Beh, questo è un po' diverso», obiettò Anna. «Temo che Sua Maestà non ti lascerà mai andare tanto lontano da lui, nemmeno con me. Dopotutto, cosa farebbe senza di te?» «Oh, sì, mi lascerebbe andare», la contraddisse Fei Ying completamente sicura di sé. «Mi lascia fare tutto quello che voglio. Io sono Somdet Chow Fei Ying, sai, e mi ama più di tutti. Quindi mi lascerà sicuramente andare, se è questo che voglio». «Beh, sono felice di sentirlo», rispose Anna, divertita dalla sicurezza nel suo potere sul padre autoritario. «E mi fa anche piacere che ti piaccia l'inglese e dipingere. Andiamo a chiedere a Sua Maestà se puoi studiare disegno anziché sanscrito, vuoi?» Fei Ying scese a terra e afferrò la mano di Anna. «Oh sì, andiamo subito!» Andarono dunque a porgere la loro richiesta al re nello studio al piano superiore. Il viso di Sua Maestà si ammorbidì mentre guardava la bambina. Sorrise ad Anna, gratificato dal suo interesse per la figlia preferita. Non fece obiezioni alla richiesta e la piccola cominciò a venire da Anna ogni giorno, mentre i fratelli e le sorelle seguivano la lezione di sanscrito. Era un interludio piacevole alla routine della scuola. A volte la bambina disegnava o dipingeva, a volte stava seduta tranquilla e guardava Anna dipingere. Se si stancava, le saliva sulle ginocchia e le chiedeva di raccontarle una storia della Bibbia. Aveva le sue preferite e avrebbe voluto sentire in continuazione. Anna si meravigliava della percezione spirituale della sua giovane mente e della sua abilità nell'afferrare il significato di quelle storie. Gli altri bambini, anche i più brillanti, erano adorabili, ma erano mortali legati alla terra. Lei era diversa. La parte gallese di Anna reagiva a quella differenza, che era come una sorgente che zampillava da qualche fonte nella profondità della sua anima. Se la principessina e suo fratello, con tutto il potere occulto che avevano per nascita e per posizione, avessero mantenuto la promessa, il Siam della prossima generazione sarebbe stato un posto migliore di quello del 1863.